dimmi roba. Guarda, a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prova, radio, prova. Solo sulla modulazione c'è da regolare. Altro no, non hai trovato, cioè non c'è qualche resistenza variabile da tirare un po' più su la modulazione, niente. Di solito ci hanno sempre qualche resistenza variabile, quei trimmerini che ci sono, da poter dare un po' più di Mickey Gain, capito? Vedi un po', vedi che ce l'ha, così va bene Roberto. Stai operando su quella resistenza variabile, prova a muoverla. Mettila, stai attento che potrebbe essere anche al contrario. Sì, infatti, così il livello più alto, così la modulazione 5 non è amplificata, però è molto più forte rispetto al primo passaggio che hai fatto. Così va bene. No, non ne hai scariche. Non ne hai scariche, sei perfetto Roberto. Cosa? Così non stai uscendo del radio, eh? Così non stai uscendo Roberto. Sì, lascialo così che va benissimo Roberto. Va alla grande, va alla grande, bella amplificata. Sì, sì, non toccare più, lasciala così. Lascialo così. Vabbè, l'hai fatto? L'hai lasciato così come era poco fa? Lasciamo stare così che va bene. Se te l'ho detto che ha migliorato il giorno e la notte, lascialo stare così che adesso va bene. Quando ti capita questi baracchini così, sappi che hanno sempre, quasi sempre, al 99% hanno sempre una resistenza variabile che ti dà la possibilità di dare appena appena più di Mickey Gain. Se non ce l'hai all'esterno, ce l'hai all'interno, capito Roberto? Vabbè, comunque già si sente la differenza, dai, non c'è problema. La differenza si sente, e come si sente, già va bene adesso. L'hai chiuso, Robert? Ehi, l'hai chiuso il microfono? Cioè, la radio? Ho detto se l'hai chiuso la radio, così è come prima. Esatto, così è leggermente più alta. Sì, leggermente più alta così. Lascialo così. Ah, devo chiudere Roberto, benedetto microfono, cioè di radio, fammela sentire chiusa, metti il trimerino, la resistenza variabile al massimo e lasciala stare così, non lo toccare più. Cosa? Ho delle scariche? E come mai? Non ho fatto niente, anche adesso? Mentre così ho delle scariche? Infatti sto tenendo sotto controllo quello, perché c'è ancora qualcosa da rivedere su questo microfono, per quello te lo sto dicendo. Sono qua adesso, sto aspettando che asciughi la, perché l'ho tutta lavata con la trilina, e poi devo controllare i potenziometri perché c'è qualcosa sui potenziometri. Eh no, era tutto impastato a CRC, adesso ho tutto pulito con la trilina, devo vedere un po' se sono i potenziometri proprio, perché addirittura su un potenziometro ne hanno tagliato un pezzettino, non ho capito perché l'hanno tagliato. Vabbè, dai. Quindi adesso non sto gracchiando più, vediamo un po', sto gracchiando Roberto, quel problema lì devo risolvere quel problema lì, perché non mi convince. Quando vado a toccare i potenziometri si sentono queste scariche, quindi devo vedere il perché. Vabbè, ma non lo deve fare però, non lo deve fare. Quindi devo vedere un pochino che cosa cavolo è. Claudio, sì. Hola, attenzione Claudio. Si sente questo cacchio di cosa. Sono questi cacchi di potenziometri, vedi? Ora, 1, 2, 3, prova. Non capisco perché. Cosa? c'era qualcuno che mi stava chiamando. Forse era Gianni. Forse era Gianni. Attenzione, brecco. Hola, hola, hola. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Prova, prova, prova, prova, prova. Cambio, cambio, cambio. Prove tecniche di trasmissione. Attenzione sul canale 10. Oh, oh, oh, oh. Chi è avanti? Da dove moduli? Bassino, sei bassino qua, a Sassari, sei molto basso, pensavo fossi più lontano. Claudio, lo stavo cercando anch'io, ma deve essere andato a fare la mamma dopo pranzo, a farsi la pedichella. Ah, ma Claudio di Sassari stai dicendo. Claudio ci sei? Beh. Hola, hola, attento Claudio, ci sei, cambio, cambio basso. Va bene, dai, ti saluto, buona serata, buon continuo a queste ore, volevo solo fare una prova, volevo sapere come uscivo di radio, niente, tutto lì. Sì, basta, non so con che antenna stai uscendo, io ho una Game Master, forse dicevo basso, KK. Va bene, dai, ti saluto, buona serata, buon tutto, ciao.

Io non sento niente, tu già? No, negativo, non lo sta facendo adesso. Ehi, come scalda? È metà ore che fa, però non lo fa più. Mi è già successo con Bombolino, qua. Io adesso stacco tutto, ci sentiamo dopo, fra 10 minuti, un quarto d'ora, non riesce, non lo fa, guarda, a dopo, ciao, riprendete voi. Non ti ho preso, se ci sarò dentro, ti dici andando, non ti ho preso. E ho detto che se lo spengo, che non ce l'ho con Maria, che il cane è solo, sembra che faccia danno. E lo spengo tutto, ci sentiamo dopo, fra un quarto d'ora, 20 minuti, dai, ciao. Ehi, va bene, ciao, avanti già. Ciao Luca, sempre Doc Kenny sei io, yeah. Adesso Claudio, mandagli la fattura anche via me da Gianni. No, mi ha pagato il caffè stamattina, quindi è tutto a posto. No, ma poverino, cazzo, è una settimana presa questo microfono, gli ho detto dallo a me, io ho tanto tempo da perdere, so cosa devo fare, dallo a me, finalmente stamattina ha ceduto, cazzo. Ci hanno visto in piazza dei segni, me l'ha portato e l'ho messo subito mano, poi l'ho mollato all'ora di pranzo, l'ho ripreso dopo pranzo e adesso lo lascio attaccato con questo baracchino, vediamo un po' come si comporta, ma sta andando magnificamente bene, quindi no, non ci dovrebbero essere problemi. Me. Titonino, buonasera. Ciao Claudio, ciao Gianni. Ciao Tonino, buongiorno, anzi buonasera, ben ascoltato. E allora, che si dice? Proprio poco fa ti ho nominato. Ero su WhatsApp con un amico e mi ha detto appunto non ho più sentito Tonino. E poi Tonino tra lavoro e altre rotture di balle sta entrando a poco. Sto vedendo che il mobile è manuale, se vedo come me l'ha dato, per carità, quasi quasi non lo riconosci più, ancora non è finito. È un mobile antico dove c'era macchina a cucire e singere, quelle antiche antiche, capito? E c'avevi non è che era l'acqua fuori, sei tutto imbuffato, casino, fino alla profondità, tutto levigato, impregnato, e noce antico, proprio uguale sta uscendo. Un'altra levigatina domani e un'altra poi impregnante. E mi comporta un po' di tempo. Aspetta un attimo, riprendi già, mi sta chiamando mia moglie. Kappa, Tony, cos'è tutto il caburotto? Un attimo che sono al telefono, entro subito. Kappa. Eccomi, Tony, sono qua, dimmi. Non dite, ma Tonino c'è una bassa in corso. Ah, ho capito. Va bene. Io mi sono tolto le cuffie perché mi stavo sempre ascoltando, ma non posso dire i cuffi tutta la sera. Se c'è qualche anomalia, avvisatemi. Tutto liscio, ho sentito, cioè si sente, non è che stai sentendo un'altra radio. Cos'è, un baracco? Eh beh, se sto usando un MB+5, non è che lo posso attaccare un bimbo, no? Ho messo il baracchino per fare le prove, 40-82 della Helbex. Sto andando con questo, non c'è manco Mickey Green. Bene, sì, me l'avevi fatto vedere in foto quel baracchino lì. Grigio a topo, se non sbaglio, vero? Sottodato. Ehi, sì, è un 100, non so se 120, 160 canali, 100 FM, con le bande laterali e basta, capito? L'ho attaccato per provare questo microfono, se no non lo posso collegare agli altri radio che ho. Infatti era dentro l'armadio, l'ho appoggiato nell'altra base con un alimentatore a parte, infatti si sente l'avvento, la vedete l'alimentatore. Avanti, Tonino. Ecco. Niente, mi ha portato un po' di tempo con la mobileria perché stavo pensando di farla con lo scappellino piano piano a togliere quel legno marcio, poi ho detto ma chi me lo vuole fare, farmi il mazzo? No. Ho preso quei dischetti abrasivi, piano piano me lo sono lavorato, è uscito al mio lavoro. E vabbè, se tutto va bene, non domani ma dopodomani glielo vendo. Non ho più sentito, Emanuele. Ma io l'ho trovato, sarà un'ora fa, indovina dove era. Ma sta bene, non è che sta di nuovo male, no? No, già sta bene, puzziloso lo vedano. Era fatta buona passeggiando con Monica, questa tipa che conosce lui. Ah, così è. E allora gli altri vesti la bacigende, riprendi già. Beh, se ne andò c'è compagnia. Anche il dolore delle discoli passa. e ci vediamo una ringhiera, la rottura della ghicchia. Il corpo umano non finisce di sorprenderci. Allora, no, siccome ogni volta che ci sentiamo non sto bene, non sto bene, non sto bene, cazzo però sempre in giro, vuol dire che si vede. Io userei il permesso, mi sono sbrigato un po' di faccende mie perché dovevo rinnovarmi anche la patente. Te ne immagini la tua scuola quanto sono ladre? Perché cosa è successo? Io in varie tue scuole che sono andato in persona, 120, 130, 150, invece dal dottor Fusi, grattacielo al secondo piano, fa tutto lui, sia marca a mollo che in due versamenti, la vista di lucro è tornata, 70 euro. E ma non è lì che sono ladri, io sino a due anni fa ho pagato 70 euro anche io da tutte le parti, adesso sono aumentate tutte, qualsiasi vai sono aumentate tutte, questo è rimasto corpretto vecchio, forse per accaparrarsi clienti, ma è un discorso commerciale, non è che sono ladri, è così, c'era un aumento da parte del Ministero dei Trasporti e hanno aumentato tutti da 70 a 100, lui è rimasto a 70, ben venga per lui, io li hanno mando in piazza Castello. Io continuo ad andare dalla mia, non me ne frega niente se pago di più, però vado sempre lì, capito? È una scelta. Sì, ma Claudio, allora, a prescindere dal fatto che è sempre quello la questione, non è che tu stai andando a comprare un prodotto che l'hai più buono e l'hai di meno, è lo stesso fattore che ti deve fare, sia la visita per il nuovo di patente. È inutile che vado a buttare 30, 40, 50, 100 euro in più per darmi la stessa cosa. No, non è giusto. Comunque lo fanno sia il Zindu che il Grattacielo la stesso prezzo, 70 euro. E a me mi va bene così perché un altro di 95 anni poi ci c'è capito. Secondo come va? Arriva a 70 anni, rimanda che il maesi e non viene a frutti più nulla, capito? Mi prenderò un dire molto senza targa, quelli senza patente, che si può guidare anche senza casco né niente, se non viene luci. Abbia mai, ma. Sì, ma io ti sto dicendo che è una scelta che uno fa, capito? Alcuni sono rimasti al prezzo vecchio per accaparrarsi i clienti, non hanno fatto altro che una scelta. Però il Ministero dei Trasporti ha fatto l'aumento, ha dato disposizioni dell'aumento su tutte le tariffe, capito? Quindi c'è chi ha fatto, si è adeguato agli aumenti, c'è chi è rimasto com'è. Quindi la gente va dove risparmia, giustamente. È un problema troppo commerciale, tutto qua. Vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole, Tunisi, ti ripeto. A me non me ne frutti nulla, io è 20 anni che vado sempre alla stessa autoscuola e continuo ad andare lì, poi. Si è aumentato, non me ne frega niente. Avanti, Gianni. Ehi, ehi, ehi. Sempre a pizzicati, no? È quello che fa girare il mondo. Tony, abbassa per l'amplificazione del microfono, gas, che mi si ammazzene, se è possibile, poi. Guarda così, va bene. Eia, eia. No, e quando pigi il PTT che si sente tutto il taburotto, adesso va meglio. Cappa. Poi, quando ti mando la patente, la tua scuola 20-30 euro. C'è scritto anche su internet, mi ha detto già, sì, 80, ma stiamo scherzando. Allora i versamenti sono sempre quelli, Claudio. È l'autoscuola che si sta prendendo molto in più, è quello che mi fa meraviglia a me. Quindi, vabbè, uno è liberissimo a fare quello che vuole, andare dove vuole. Io non sono scemo, io con 30, 40, 50, 80 euro in più, mi compro un porcetto di Romagna in campagna. Sì, capito, zio, non è un problema. Però ho detto, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però se hanno deciso così ci sarà una motivazione, non poi se uno si alza la mattina e aumenta i prezzi. Le autoscuole fanno parte della motorizzazione civile del Ministero dei Trasporti, non è che sono contro Giulio, non è un negozio generale alimentare, no? E ho comprato, perché ho comprato i salame e i fiorucci a 20 euro al chilo, lo devo vendere a 25 o a 30, capite? Quello è un decreto, sono decreti ministeriali, decreti legge che fanno fanno queste cose, non è che decidono loro, poi ti ripeto, magari c'è chi è rimasto ai prezzi vecchi e c'è chi si è adeguato, non lo so, io comunque, che sia 20, che sia 30 euro in più, io sono solidale alla mia autoscuola e vado lì, anche perché è una vita che ci vado, quindi non mi sembra il caso per 20 euro, per 30 euro cambiare. Non mi fanno né ricco né povero, intanto non è che sono tutti giorni. Sono ogni 2 anni, ogni 5 anni, quanto è boh, faccio manco lo so ogni quanto ci rinnova la patente. Riprendi già. Ehi, ascolto, col baracco come mi dicevi, ma non fai un rapportino? Guarda, sì, sul più del 9 più 20, quindi dovrebbe essere 9 più 20. Bene Meda, bene Meda. Thank you so much. Avanti, Tony. Bene, Meda. Ok. Quindi, abbiamo tralasciato Claudio con la famosa questione. Quando lo vogliamo riprendere, ditelo voi. Se poco la ripigliamo, io torno a fare nessuna parte. Già non sto uscendo, questa settimana mi sono ripreso ieri, ero da lunedì sino a ieri a tachipirina, c'avevo un po' di febbre, un po' di influenza, raffreddore eccetera, quindi ho preferito rimanere a casa e un po' mi sono ripreso, però adesso lasciamo passare questa ondata di questa cosa, perché non per, però è sempre un rischio, è sempre un rischio stare in giro a destra e a sinistra, capito? Poi si vedrà. Non problem. A noi ci hanno fatto il coso prima del prelievo del sangue, poi ci hanno fatto il tampone, tipo drive-in e Arezzetto, tutto in fila. E i primi risultati di 90 tamponi, sì, positivi, circa il 7%. Noi siamo a 180. Quindi noi siamo di prima, noi niente, sono quelli dell'edilizia e quelli dell'edilizia l'hanno già messo in quarantena. Boh, è qualche di uno d'ufficio, ma com'è che non andiamo all'ufficio noi? Te lo sto dicendo, ci sono troppi asintomatici, quindi bisogna riservarci. Grazie, le cene, le cose, ci sarà tempo e luogo per poterli fare. Per il momento dobbiamo stare tranquilli e aspettare che abbassi questo casino. Vai Gianni. Oia. Quindi Tony ti sei fatto tamponare? Ma ti dirò una cosa. Allora, siccome a me mi sale il flusso la notte, no? E quindi sono andato a spiegare, mi hanno dato questa cura che efficace, non mi ha fatto più successo niente, ma prima di darmi questa cura mi hanno entrato la sonda nel naso, sino alla gola. Beh, non è così fastidioso come il tampone, la mazza viene scenda questa ragazza, 2 volte che mi è entrato dentro i 2 colpetti, guarda, un fastidio, è un nervoso perché mi ha fatto veramente un po' male, mi ha rotto le palline. Come lo posso immaginare? Me lo posso immaginare, cazzo, mamma mia. L'ho fatto anche io. Ti mettono questo, fai una secchina longo, ti tiene tra tutto il naso, è fastidioso, lo so, cosa stavo dicendo, reflusso gastroesofageo, cioè anche tu, ce l'ho anche io, una vita, io prendo la soprazolo tutti i santi giorni, adesso una settimana non lo prendo, mi sto prendendo altre medicine, capito, però lo prendo da sempre, il reflusso è brutto, è una cosa un po' bruttina, però se la curi già fa bene, non c'è problema, vai già. Mamma mia, non lo so immaginare, per fortuna non ho questi problemi, quindi, però già il fatto di chi ti senta lì, mamma mia, non ci voglio pensare qua. Lasciamo perdere, cambiamo argomento. Facciamo la questione era meglio il tampone. Insomma, ti sto prendendo il raso in culo già. Se fa una violazione di domicilio, eh. Ah beh, quello sì. No, ma è fastidioso, l'aveva fatto anche mia figlia, mi ha detto papà, è molto molto fastidioso, capito? Infatti io, meno male l'ho fatto già sì, 20-25 giorni fa, perché adesso non potevo fare perché sono goduto in Tarzad, ci mette a entrare nella zona d'aeronaggio con il gatto Rucci. Se un demonitore ci vuole. Io me ne prendo un bel naso, capito? Un bel. Fortunatamente non so come un dia a dia, però respiro male. Però è tutto a posto, è tutto sotto controllo, non ha più virus. Vai Tony. Ecco, ma niente, quella cosa che stiamo parlando invece, non so se si chiama Gadralmi, ma non mi ricordo, queste bustine che la bevo la notte, ha sapore così buono di un bonfo, me volentieri, e non mi è più venuto. Io una notte, ripeto, quando mi è venuto mi sono spaventato, altre mattine invece sono uscito in mutande fuori, ma tra l'altro mancata di nuovo, sono morendi, mi mancava respiro, non riuscivo a respirare, lui che fea il virus, mi manca le danno, non altro nessuno. Ci è venuto il reflusso, diciamo, i succhi gastrici affoghimi, ma buffonendici, io l'ho avuto tanti anni fa e l'ho curato subito e ancora oggi prendo, te l'ho detto, una pastiglia proprio per il reflusso, si chiama Etoprazolo, perché sennò è un casino, e devi stare attento a quello che mangi anche, il caffè fa male, tu non fumi, vabbè, però fa male il fumo, il caffè, i latticini, soprattutto il formaggio, capito? Molte cose fanno male, molte cose, i pomodori, tantissime cose. Io prima non le mangiavo, adesso ho iniziato a rimangiarle perché la cura in pratica non mi sta più facendo salire i succhi gastrici, capito Tony? Stai attento, cura la chiafferma, vai già. Dai, mamma mia, io ho una, come si dice, non riesco a trovare il termine per definire cosa mi fanno i camici a me, mamma mia. Comunque, che ti posso dire, sì, sono 3 anni che lo sto curando, grazie a Dio non mi è più venuto. È brutto, ma mi si gonfiava anche l'ugola, che era all'ospedale, e faceva le flemmo, le radine, che darsi un po' di casino, insomma, per carità, aveva questa cosa in gola, cioè l'ugola gonfia praticamente. 2 volte mi è successo, poi con la cura giusta, grazie a Dio, buon basta. Vera bieta, dai, tutti gli acciacchi ci abbiamo già, capito? Cambiamo discorso, parliamo di cosa buona. Vabbè, piano piano, meglio, come si dice, quanto possibile per evitare certe, perlomeno io parlo per me, se riesco a evitarle certe cose è meglio, poi giustamente a mali estremi come ti sei dici. A mali estremi sei rimedi. Oh Claudio. Naratoli. Devo dire, poco fa, poi mi sei sentito il gambo con il discorso che abbiamo avuto, ti sento diverso di modulazione, come mai? Sto usando il baracchino con MBP5 che me l'hanno dato a metterlo a posto, e finalmente sono riuscito a metterlo a posto e quindi lo sto provando. Sono col baracchino con un Elbex e un MBP5, non sono con la solita radio Tony. Infatti ce l'ho messo, tutto diverso. Io però ti ho sentito il Tetta Claudio, a Giovanni ti riconosce il manco. Se ti chiama Gianni Claudio, ascoltando bene sì la voce sua, ma tutto diverso. Adesso ho capito il perché. L'importante è che esca bene, poi è chiaro che la timbrica è diversa e... No, la voce è già sempre ghiscia, già mi riconoscono. È la timbrica che è diversa, però mi interessa che vada bene, va? È backup, certo. Va bene. Tu che giorni, che zona sei? A me, Tony. Io sono zona stazione. Zona stazione ferroviaria. E qui sei vicino a Bombolino. Bello, vedo l'antenna, se ti vedi compro un po' di resa e gliela tiro giù, yes. E forse è anche più forte il segnale, forse mette diverse antenne. Lui è un po', lui è infossato rispetto a me, io sono un po' più in alto, sono libero, lui è dentro un fosso, è in mezzo ai barassi, palazzine, dai, e quindi è un po' più penalizzato. e quindi li puoi pescare l'antenna quando vuoi. Allora ti qua. Tu già, ci impari chi c'è un curulaccio, qui pigliani lo buco, lo vuoi. Quello lì mi, giri, più, e gli attiri in giù. Così quando fa modulare dice, cazzo non sto uscendo più. Tipo Socalores, alla mammogliatina. Sì, all'imbreccio. Ui, ui, sì, no, già è abbastanza vicino alla Fedo, proprio a portata ottica. Adesso l'ha cambiata, infatti va. Cioè, vabbè, non fa testa, no, che cazzo mi arrivi a fondo Sca, però va meglio rispetto a quella che c'aveva prima. Tutti ci abbiamo i vicini. Io c'ho Antonello e Roberto, che sono tutti e due i 9,60, quindi è chiaro che no, qua c'è un buon segnale, 9,15, liscio quando attacca 9,20, tu invece sei 9,20 liscio, capito? Vabbè, solo liscio posso essere, non faccio altro, e va bene così, ma poca resa, cioè poca spesa, molta resa, dai. Figurati, io sono con... saranno 5-6 watt, non di più, l'importante è sentiamo. No, ho dovuto attaccare questo poi lì perché l'MB più 4 ve lo attacco, è a 4 puri, non lo posso attaccare il cable, capito? E quindi ho dovuto togliere nuovamente un baracchino dall'armadio, l'ho messo sull'altra base con un alimentatore, sentirei anche l'avvento dell'alimentatore, cosa che prima non si sente, perché proprio una, c'è il baracchino, un alimentatore a parte, il microfono, perché tutto aperto, rifatto e messo in ordine, lo sto tenendo sotto controllo, capito, perché sono con questo. Sì, si sente la vita, ripeti già. Allora, buonasera a tutti. Ciao doppio. Ciao, con quello sì, ciao. Eia, e quello lì sta fischiando quell'altro, cazzo, non avremmo fatto una da Babbo. Sì, sono con l'MB più 5 e l'Elbex. Però fischiando. Eia, quello lì stai fischiando tu. Adesso ti do questo e mi dai quello. No, non è il microfono. Aspetta che guardo se c'è un altro spettacolo. No, già, a fottidini che... Qua. Se vuoi ti telefono un attimino e ti spiego cosa c'aveva questo microfono. Ehi, lui, un kitty spray, per carità. Li prendi o... Gianni Rubrofetta con Tonino un attimino che chiamo il telefono a Gianni. Ehi, avanti Tonino. Venga, va. Bene, comunque, dopo sono nato, io lavoretti un po' come sto facendo. Sono in attesa della pensione, quando arriva, beh, sto cercando la lettera dell'INPS come il pane, aspettiamo. Adesso devo telefonare dopo il 20 che mi danno una risposta più positiva. Così dopo il lavoro rimando tutti quanti quel paese, riprendi. Quindi sono in attesa di pensione, così è. Gabba. Bene veda. Noia. E cosa ti devo dire? Io sono senza argomenti oggi, guess. Tu sempre sei in campagna, sì? Cappa, sempre uno dei chi mi muove. Oggi sono stato lì, come guardavo con quel tubo, volevo sollevare, ma sono solo il diametro di questi qua. Non ho preso, capito? Tu se mi sbaglio il tubo. Volevo sollevare altri 2 inch. Vorrei superare quel palazzo, 2-3 metri, lo vediamo, che c'è a fianco, che poi è vuoto. Ehi, no, tu già arrivi bene qua, dai, se 9-10 abbondante, e io come ti arrivo su? Prova a vedere che ti guarda. Cerco 1-2-3, prova l'aereo. Tu sei 9-20 qua, l'area di 5 è perfetta. Bene veda, come dice qualcuno, ottimo per la truppa. Cappa. Niente, io mi sono fatto quando c'era il coronavirus, marzo, aprile, ho avuto un incidente con l'azienda, mi dava la mira del mio collega, c'è stato infortuni 2 mesi, ho fatto marzo e aprile, poi a maggio siamo rientrati, mi hanno messo in quarantena perché sono fragile, sono cardiopatico, quindi automaticamente altri 2 mesi a casa. Insomma, quei quasi 4 mesi io mi sono comprato un bel po' di materiale. E quindi mi sono messo a fare i mobiletti e il mio passatempo l'ho trovato. Ora quando vado in pensione, non certo mi arrugginisco, comincio a fare destra e sinistra e mi do da fare un po' di tutto. Hai fatto bene. E beh, perché rinunciare a determinate possibilità se uno se ha delle occasioni del genere è meglio buttarsi a pesce, come si dice, no? Grappa. Infatti qua in casa c'era questa mezza parete che è trovata, mi faccio un bel mobiletto. E qui ci metto il baracchino, quello e quell'altro. Beh, il mobiletto mi è uscito 1,40 m di altezza per 90, profondità 40. E ho fatto lo sportello, ci ho messo il tipo scarpina. Uno sportello che si apre e ci fai, ci appoggi il microfono, gli altri basamenti sono i baracchini. Insomma, me l'ho studiato bene. Poi ho fatto altri due mobili rossicci, meglio me l'ho messo tutta la ferramenta che ho. Un po' di ferramenta, perché poi sotto la veranda ne ho altre 4 ornaglietti che ho un casino di roba. Mi capisce già avuto il modo di venire qua e vedere la roba che ho. Infatti mi chiamo Carboni, ma... Me lo posso immaginare. Vabbè, una volta che parte l'embolo, come si dice, fermarsi è difficile, dai. Tu pensa che a volte mio figlio l'ho detto, ascolta, quando parlo non ce la faccio più, dico tutto a te e metto, e cosa immagini di un dir, ma piglia che roba. Un viaggio di cose, come ti diciamo, ma quelli che fanno, che hanno, trasportano sulle spedizionieri tipo Poda, Nieddu, un 12 metri. Ci sentiamo dopo e vi sposto io, ok, se siete qua ci sentiamo dopo. Cosa mia è questo, perché, allora, inizio mio, che quando mi uscivo un lavoretto, ho già, capitava che mi serviva un attrezzo. E a casa ce l'avevo, però non andavo a casa a prenderlo, andavo, in negozio compravo. Ah ecco, vi siete sovramodulati, Claudio ha detto che si assentava un attimo, mentre stavi parlando tu, Claudio ha detto che si spostava. Ho detto che quando mi uscivo ai lavoretti automaticamente, per andare a casa a cercarlo e andare a farmi lavoro, andavo a comprare un uovo, ecco perché ho 4 seguito alternativi, 5 ballerine, insomma con in tutto un casino, trapani, 7. 5 abitatori, molette, flessibili come ti diciamo, comunque no, è sempre un buon investimento, almeno c'è la scorta, dai, se si faccia uno qua da più pronto. Sì, abitatori ne ho, non c'è problema, c'è anche quelli pili che c'erano meccanici, che c'è la calamita, ne ho comprato 2 di quelli lì, mi piacciono, 20 mosso, belli. E niente, poi c'è anche il cartuccio che taglia il seghetto alternativo orizzontale grande, che è quello elettrico, infatti ho tolto qualche albero, ho dovuto comprare quello lì, è un amore, guarda. E quindi, ne ho. Siamo occupati, ci è venuta. Un attimino che mi sposto io, se siete qua ci sentiamo dopo. Va bene Claudio. Claudio, è il doppio rumore, sparito Sta cercando uno spezzone, dai. Mi sposto un attimino a fare una prova con questo microfono, ci sentiamo dopo. Andamex. Claudio. E c'è bene il bricolage, dai. Ti tira fuori dai guai spesso e volentieri, baccani, qua sono 2 o 3 cosucce e si fanno tantissime cose. Ehi cappa, guarda, mio zio è andato in pensione e ti posso dire una cosa, non ha fatto più niente, si è arrugginito, se tu lo vedi che lui è 4-5 anni in pensione, pare un uomo che va a 90 anni. Lo so. Alcuni reagiscono così, altri invece no, non riescono ad andarsi in pace, casino sempre in giro, sempre vendicosa. Non so, conosco qualcuno così, quindi chissà cosa scatta a livello psichico quando si va, insomma, quando si finisce tra virgolette quella, chiamiamolo, quel periodo lavorativo, dai. No, io guarda, se non mi muovo sto male. Mi alzo alle 5 del mattino, mi preparo con calma, tutto quanto, esco alle 7:10, perché se esco alle 7:05 devo aspettare che si svuota tutto il paese, anche per un traffico che non finisce più. Niente, poi arrivo da casa a 2:20, perché tipo alle 2:10 faccio 6:40, tutta mattina 7:30, 14:10 e comincio a fare una cosa e l'altra, non sto mai fermo. Guai, e se mi fermo lo sgomoscio, io sto male, sempre in movimento. come stavo dicendo poco fa, una volta che acquisisci quel tipo di dinamica, ti ripeto, poi ogni regione è diverso, c'è chi continua e c'è chi si lascia andare in qualche maniera, cazzo. Bisogna rimanere sempre attivi, dai. Sì, e tu ti trovi bene con te stesso, capito? Perché sembra quando tu ti lasci andare, invecchi prima, non è così. Non puoi abbandonare il tuo corpo, una volta che è abituato a fare una certa cosa, poi lo muovi di colpo. E si rovina. È come che tu c'hai un motore, una macchina, l'abbandoni e non la metti più in moto. Dopo 5-6 anni che è fermo, 10 anni non puoi più in moto. Ce la dirà un po'. Eia. Paragone che ci ha azzeccato, dai, che ci può stare. Eh sì. E vabbè, poi scattano anche altre questioni. Insomma, non è come si dice, non è così semplice. Poi giustamente chi soprattutto è abituato a fare lavori manuali, certe cose le accusa di più, dai. Ma io faccio manutenzione, impianti elettrici e idrici in tutte le scuole superiori di tutta la provincia di Sassari, quindi è un lavoro che mi è sempre piaciuto, ci sono già quasi 23 anni. E insomma, il nostro età, la patologia che ho, la percentuale di invalidità, me ne sto andando in pensione, perché ho in mente di fare altra cosa per me stesso e per i miei cari amici e parenti. Eh beh, claro che sì, come si dice, no, è giusto ed è legittimo, per carità, cioè dopo aver prestato l'opera per altri, è giusto che adesso uno si ritagli il proprio tempo e lo dedichi alle cose che più c'ha a cuore. Io ho perso tempo fa, per i contributi, se non anche ora, da un bel po' in pensione. Ho solo tanto 39 anni in contributi, già non sono pochi. E poi niente, l'età 66. Ma già sto bene, dai, grazie a Dio. Vabbè, qualche ciacco ce l'ho, ma non è colpa mia, è purtroppo l'età. E poi questo fornero ci manda quando siamo gli agguacci, la mazza di Eva Buraetta. Aspetta che c'era un portante, avanti, che vuole entrare qua su 10. No, non era portante, sono arrivato in ritardo rispetto a Tonino, lui ha fatto prima di me a premere la portante. Ciao Gianni, ciao Tonino. Tonino, me la dai la gamba da letto di Crabbo Figo? Ma da chi pubblica viene la predica, se ne parliamo tu, ciao Giubbe Sentito. Ciao Tonino. Il Crabbo Figo però la voglio, se no di altro legno me la posso fare io, ma il Crabbo Figo forse tu ne hai di quel materiale. No. Dovrei avere la... come si chiama, aspetta, la squadra tonda. ok. Vabbè, dai, fammi salutare a Gianni, che sono da un bel po' di tempo senza sentirlo. Ciao Gianni, e allora ti prego, funzionando sta. Ciao Giulio, buonasera, ben riascoltato dopo tempo. Sì, i treni non sono al pieno regime, diciamo, dai, con la storia qua dei vari blocchi, perché gli studenti non stanno viaggiando e quelle poche persone che ci sono comunque già viaggiano uguale, dai, e diciamo che stanno viaggiando a una percentuale più bassa, comunque già si vive in movimento e i vari treni sono in movimento, quindi è tutto regolare. Ok, no, è perché adesso mi serviva, sai, serviva a me un giro di treno, mi serviva, visto che mi sono slogato oggi una caviglia, per cui sono zuppo. vabbè, dai, vuol dire, mi affitterò un cavallo, magari un cavallo buono, e che si addennano, in modo che dopo che l'ho usato l'ammazzo e me lo mangio. Bene, Marco, di già. Oi, no, ma per una slogata in una caviglia il cavallo non te lo consiglio, se no con il rischio di slogarti pure l'altra. Dice, quello quando salgo, quando metto il piede nella staffa, beh certo, può succedere. Vabbè, le consideriamo quindi poi infortuni sul lavoro. Vero Tony? Capa Giulia, io faccio il fai da te, non sono falegname come te, io sono un'elettricista. Però quello che mi piace a me è che me lo segna su un pezzo di carta, faccio il disegnino, copro il materiale, me lo faccio come voglio io. Piccola manutenzione, eccetera, eccetera, i mobili che mi interessano, e grazie a Dio già escono bene, capito? Quindi fai da te, tutto qua. E basta. Poi, il mio mestiere è tutto un altro. L'importante, insomma, Giulio, andare avanti tranquillamente è sempre, diciamo, in buona armonia. Sicuramente sì, te lo credo, quello non deve mai mancare, la buona armonia, la voglia di fare, soprattutto la salute per fare. Tu fai l'elettricista di mestiere? Beh, io ho giocato per me da elettricista, io ne ho fatto 12 anni e ancora oggi me lo ricordo il mestiere. Poi per casi avversi rispetto all'impresa dove lavoravo, alla ditta dove lavoravo, che avevano fallito, è successo che ho cambiato così per caso, ho cambiato mestiere e ne ho giocato oltre 50 anni. Vabbè, dai, comunque, andavano matessi, perché erano tempi un pochino difficili allora, in quel periodo, se no io il mestiere mio era l'elettricista, facevo gli impianti, le palazzoni, per cui, dopodiché è successo che dove lavoravo, ho fallito la ditta e dunque ha dovuto licenziare tutti i dipendenti, no? Mio padre, che era un capo operaio in una falegnameria, ma sai, io quando stai a trovare lavoro vieni con me, e da lì ho incominciato l'attività di falegnameria e dunque me la sono portata sino alla fine, sino alla pensione, tutto lì. Tony, vabbè, io dall'età di 9-10 anni mi piaceva l'elettricità, Giulio, e quindi ho continuato sempre, il corso di aggiornamento, eccetera, eccetera. E quindi se sono qua, sono già quasi 23 anni che faccio questo lavoro in tutte le scuole superiori, e ho fatto anche impianti civili e industriali, ne ho fatto uno a Corsuine, per la Maggiatoia, grazie a Dio. Ne ho fatto. A parte quello faccio anche altri lavori, dai, non è che faccio solo quello. Cartone catramato, serramenti, sempre. Ho imparato molte cose. Ok, Gianni, ripeti. Eia, io mi assento un attimino che ho una cosa da spiegare, quindi bianco per me, dai, ci sentiamo tra poco. Ok, d'accordo, buon curicolo Gianni. Avanti Giulio. Ok, Tony. Sì, beh certo, no, ma è bello, è un bello che un uomo sia così eclettico, che riesca a fare diversi mestieri, e tutto è utile nella vita. Anch'io ho iniziato all'età di 10 anni a lavorare, in un negozio di elettricità, tu non lo so se te lo ricordi ancora, quel negozio che c'era lì, la Fiorentina, nel negozio giù al corso, di fronte al primissimo UPIM di Sassari, c'era questo negozio, prendeva i lavori, lì si vendevano materiali elettrici, si vendevano elettrodomestici, lampadari, eccetera, eccetera. Però la ditta prendeva i lavori e li passava ad un certo Mallio Artemalle, un bravissimo elettricista di quel tempo, di quel periodo, e a me mi mandava insieme a lui, mi mandava in cantiere, ed ecco che ho imparato a fare l'elettricista. Però il lavoro, ripeto, cioè io ero dipendente della Fiorentina, la ditta si chiamava La Fiorentina, però i lavori li passava a questo Mario Artemalle, che era uno elettricista che lavorava in proprio. E per aiutante mandava me e anche altri ragazzi che c'erano con noi.